Letture di Radio 24. Sono passati 40 anni dalla strage di Piazza Fontana, ma come sottolinea lo studioso di storia contemporanea Raffaele Liucci in un articolo pubblicato oggi sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, manca ancora una storiografia definitiva sull'argomento, in grado di chiarire i molti dubbi che ancora permangono sulla matrice, in parte neofascista e in parte anarchica, della strage, della defenestrazione di Pinelli e dell'omicidio Calabresi. Il passato più recente è spesso colonizzato dai non addetti ai lavori. Un caso esemplare è rappresentato dagli anni 70, quasi sempre appannaggio di storici occasionali, includendo in questa categoria non soltanto i giornalisti, ma anche i testimoni, i reduci, i letterati, i cineasti, i magistrati, persone volenterose, spesso di ottimo intuito, ma incapaci di passare dal magma della memoria alla roccia della storia condivisa. Ne abbiamo avuto conferma con il recente dibattito innescato dal film di Marco Tullio Giordana su Piazza Fontana. Molti hanno rimproverato il regista d'essersi liberamente ispirato anche a un libro del giornalista d'inchiesta Paolo Cucchiarelli. Un libro perturbante e controverso, secondo il quale nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, il 12 dicembre 1969, furono collocate ben due bombe. Una letale, di matrice neofascista, l'altra innocua, per mano degli anarchici, trascinati con l'inganno in un gioco molto più grande di loro. La tesi è suggestiva, ma forse un po' troppo romanzata. Resta il fatto che il volume di Cucchiarelli, pur essendo meno paranoico di quanto sostengano i suoi detrattori, gode di scarso credito fra gli studiosi. Chi più di tutti non riesce a digerire il libro di Cucchiarelli, definito un detective dilettante, è Adriano Sofri. Per confutarlo, l'ex leader di Lotta Continua, già condannato come mandante dell'omicidio Calabresi, ha vergato un frettoloso instant book. Sofri sembra roso dall'ansia di difendere la purezza quasi ingenua di Pinelli, che invece, pur innocente, secondo Cucchiarelli aveva fiutato la trappola in cui erano caduti alcuni suoi compagni anarchici, Valpreda in primis. Strano destino, quello di Valpreda. Oggi è commemorato dalla sinistra alla stregua di un eroe perseguitato, ma all'epoca, prima di trasformarsi nel capro espiatorio di Piazza Fontana, era reputato dai suoi stessi compagni un provocatore e un esaltato, campione di un sottomondo culturale ricattato e ricattatore, terrorizzato e terrorista, scriverà Pasolini addirittura un mese dopo il suo arresto. Il limite maggiore dei testi di Cucchiarelli e Sofri? Sono entrambi libri attesi. Spesso smarriscono il contesto, impelagandosi in disquisizioni arzigogolate. Sofri accusa Cucchiarelli d'essere affetto da una vanità impermeabile all'autoironia. Ma lo stesso, a maggior ragione, potrebbe dirsi di Sofri medesimo. Persuasi di possedere la chiave d'accesso per penetrare i meandri di questa vicenda, i due autori non s'accorgono di forzare, in tal modo, le carte che hanno in mano. Un ventenne dei giorni nostri faticherà non poco a orientarsi in questo labirinto. Il film di Giordana, perlomeno, ha il pregio di trasmetterci un diagramma intelligibile, distinguendo, per quanto possibile, i fatti dalle interpretazioni. La verità è che Piazza Fontana non ha ancora trovato uno storico definitivo, al contrario di quanto è accaduto con il caso Moro, che ha avuto in Miguel Gotor il suo più cristallino decrittatore. A cosa si deve la rivoluzione copernicana di Gotor, il quale con un paio di libri ha polverizzato quasi tutto quel che era stato scritto in precedenza sull'affare Moro, costringendoci a contemplare gli anni di piombo sotto una luce inaspettata? Essenzialmente tre fattori. A. La giovane età del ricercatore, che all'epoca era un bambino e quindi non ha potuto lasciarsi influenzare dal proprio vissuto. B. Un bagaglio filologico ignoto ai predecessori. C. La volontà di indagare la tragedia di Moro non come un episodio ancora incandescente, con pesantissimi riflessi sino all'oggi, ma come una pagina remota. Gotor, storico dell'Inquisizione e della censura in età moderna, ha avuto la sensibilità di studiare uomini ancora vivi, come se fossero morti da secoli, e di maneggiare documenti pulsanti, come se fossero ormai deteriorati dal tempo. Ecco, Il futuro storico di Piazza Fontana, se mai emergerà, dovrà soddisfare questi stessi requisiti, altrimenti continueremo a pascerci delle simulazioni impressionistiche e dei pamphlet d'occasione. Sempre il futuro storico dovrà forse tripartire, per così dire, la materia. Sono tre, infatti, gli eventi originati da quel maledetto ordigno, da studiarsi separatamente. 1. La strage vera e propria. 17 morti e quasi 90 feriti. Qui abbiamo una verità giudiziaria, seppur incompiuta. L'ultima sentenza di Cassazione del 2005 ritiene infatti provata la responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, esponenti della cellula veneta del neofascista Ordine Nuovo, ormai non più processabili perché già assolti nel precedente giudizio di Catanzaro. Conosciamo quindi gli esecutori, ma non i mandanti, coperti dai numerosissimi depistaggi. Anche il termine «strategia della tensione», per etichettare questa e le successive stragi, è forse inadeguato a cogliere la complessità del fenomeno. Come ha scritto Mimmo Franzinelli, il numero di attori e di enti coinvolti fu troppo grande, la loro autonomia e le differenze troppo marcate, il succedersi degli avvenimenti troppo disordinato perché si possa pensare alla messa in atto di un unico piano globale. Il golpe era possibile, ma improbabile. Contava soprattutto condizionare il quadro politico in senso centrista. 2. La defenestrazione di Pinelli. A tutt'oggi non esiste una ricostruzione plausibile di quella notte, del 15 dicembre 1969. Anche la sentenza di proscioglimento redatta nel 75 dall'allora giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio, quella del malore attivo, non suona del tutto persuasiva, se scandagliata con la lente dello storico. L'unico fatto certo, purtroppo, è la versione opaca e reticente della morte dell'anarchico fornita dalla questura, versione che attizzò l'incendio. 3. L'assassinio del commissario Calabresi, 17 maggio 1972, accusato dalla piazza d'essere il responsabile della fine di Pinelli. Secondo la giustizia italiana, il delitto, primo omicidio politico nell'Italia repubblicana, fu deciso dal vertice di lotta continua. È questo, forse, l'episodio più inquietante e indicibile. Qui, infatti, non abbiamo a che fare con i tenebrosi scantinati neofascisti o con le fosche congiure dei servizi deviati, ma con un pezzo della futura classe dirigente che, passata la Buriana, beneficerà di munifiche carriere nell'università, nel giornalismo e nell'industria. Tre eventi concatenati ma distinti, con attori quasi sempre diversi. Forse non ha torto Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi, nel dire che per conoscere la verità bisognerà davvero aspettare una terza repubblica e una nuova generazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raffaele Liucci, Una strage senza storiografia, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi.